9 in punto, la versione di Oscar. Ho giocato 3 numeri in lotto, 25, 60, 38. Penso poco successo farà, la canzone se il terno uscirà. Ho giocato 3 numeri in lotto, 25, 60, 38. Ed eccoci qua con la voce di Van Wood. Non so quanti di voi, ma insomma, quelli che hanno una certa età come me se lo ricordano come il mitico batterista di Renato Carosone. Molti italiani in questi giorni non fanno altro che giocare al Superenalotto. C'è un jackpot, un premio che è storico, è quello più importante nella storia delle lotterie, dei giochi a premi italiani. Siamo verso 107 milioni, perché neanche sabato è uscito il 6, e quindi tutti in fila, tutti in corsa. E quindi interroghiamoci però su questo fenomeno, non solo sul Superenalotto ovviamente, ma su il rilievo che il gioco ha nella società italiana. Ed è un rilievo molto molto importante, perché non so quanti si interroghino sulle dimensioni, la pervasività, il radicamento culturale e il peso crescente che questo fenomeno ha nella società italiana. Io vi butto lì alcune cifre per aiutarci a capire. Nel 2008 il totale di ciò che gli italiani hanno scommesso nei diversi tipi di gioco, naturalmente quelli legalizzati e consentiti, quindi sto parlando delle cifre ufficiali, sono stati 47,5 miliardi di euro, cioè 3% del PIL, per intenderci. Quest'anno, dai primi dati della prima parte dell'anno, stiamo andando a oltre 55 miliardi di euro. Pensate, erano solo 14 miliardi di euro nel 2000, quindi in questi ultimi anni è un fenomeno in vasta crescita. A giocare il 55% di italiani adulti, quindi siamo quasi intorno a 30 milioni, l'11,6% di loro dichiara di giocare almeno una volta a settimana a uno dei tanti concorsi pronostici. Ci interrogheremo anche su quali sono, come sono cambiati, perché sono cambiati e che cosa esprima il loro cambiamento e la loro presa di piede in questi anni. L'1,4% degli italiani dice di giocare addirittura ogni giorno, e sono quindi 700 mila, ma almeno 13 milioni di italiani dichiarano di giocare da almeno 3 giochi ogni settimana, e insomma sono tanti. Ecco, nel 2008 al Superenalotto, solo per restare a quello di cui stiamo parlando per via di questo stratosferico premio che è in ballo, oltre 11 milioni hanno dichiarato di giocare al Superenalotto. Eppure pensate che in 14,4 giocano abitualmente all'otto, in 10 milioni e oltre alle lotterie istantanee, cioè gratta e vinci. Le lotterie nazionali invece sono in calo, riguardano solo 5 milioni e mezzo di italiani nel 2008. Poi ci sono i concorsi a pronostico, con solo più 2 milioni di italiani. Sono quelli classici degli anni 50 e 60, tutto calcio, tutto gol, tutto tip, sono in caduta libera negli ultimi anni. Poi ci sono 2 milioni e 700 mila di italiani che scommettono sulle scommesse sportive, in forte crescita, con gestori privati paralleli. Poi ci sono 1,5 milioni di italiani sulle scommesse online, e queste sono in fortissima crescita, come tutti i giochi che riguardano internet. Perché lo fanno? Perché il 43% di loro dichiara di pensare a cambiare vita. Pensate, meno del 20% dichiara di farlo per divertimento, solo l'8% dichiara di avere una vera e propria dipendenza, ma il 19% dichiara di conoscere gente che ha avuto grandi guai per il gioco. Quindi insomma, forse la realtà sta a metà tra questo 8% e questo 19%. Avrete capito insomma che è un fenomeno molto rilevante, è una vera e propria industria, perché col 3% di PIL stiamo parlando di molte migliaia di posti di lavoro, più o meno 15 mila, ma con tutto l'indotto diventano 70 mila, 80 mila. Stiamo parlando di un fenomeno nel quale lo Stato ha avuto l'obiettivo, interroghiamoci anche su questo, di modificare in questi ultimi anni la legalizzazione di fette crescenti di tipi di scommesse, quello online. Partivamo pochi anni fa da un paese con videopoker clandestini, che erano la manna per la criminalità organizzata, e quindi si è legalizzato il tutto, e lo Stato in questi anni ha cambiato di volta in volta il prelievo fiscale su ciascuno di loro, in maniera tale da convogliare, per così dire, da incentivare gli italiani. Il prelievo è diverso di gioco in gioco, incredibilmente quello più alto, il 49%, è proprio quello sul Superenalotto, il 49% di quello che giocate al Superenalotto va allo Stato. Ma fine di questa cosa di numeri, che serve un pochino a capirci tutti quanti, sul totale della raccolta di questi 47 miliardi e mezzo di euro del 2008, e ciò che viene restituito ai giocatori è un monte elevato, perché il 68% dei 47 miliardi di euro e mezzo viene restituito ai giocatori. Era una percentuale molto più bassa anni fa. Lo Stato ha fatto in modo, graduando in maniera diversificata il prelievo e accentuando la restituzione al giocatore, di far aumentare molto il volume delle giocate, e, ripeto, da 14 miliardi nel 2000 ai 50 e rotti miliardi che saranno quest'anno. Fine del mio riassunto generale. Chiamate all'800 24 00 24 per dirci la vostra, mandate sms al 349 238 6666, 9@radio24.it è il nostro indirizzo. Tutti quanti mi aspetto che ci diciate perché giocare, perché non giocare. Allora, iniziamo con alcuni dei nostri ospiti di oggi, innanzitutto con Antonio Tagliaferri, il direttore centrale per i giochi dei Monopoli di Stato. Buongiorno dottor Tagliaferri. Buongiorno. Ecco, quanto io ho detto, diciamo così, su lo Stato che negli ultimi anni ha graduato, da una parte ha esteso la panoplia dei giochi e delle scommesse, dall'altro ha graduato il prelievo fiscale cambiando talvolta anche più volte in un anno il peso fiscale sui diversi giochi, e io gli attribuisco un disegno nel tentativo, ma sono troppo secondo lei generoso nell'attribuirgli un disegno, oppure effettivamente questo è quello che si può leggere, perché negli interventi dall'inizio degli anni 2000 e molti sono stati tanti su questo tema? No, c'è ovviamente un disegno che l'amministrazione persegue sulla base, ecco, non dimentichiamo, di direttive, chiamiamole così, che derivano dalle leggi che il Parlamento approva. La materia dei giochi negli ultimi anni è un settore in cui l'intervento legislativo è stato molto presente, molto frequente, secondo un progetto che lei, come dire, in maniera abbastanza precisa ha ricostruito. Diciamo che l'oggetto principale di questo progetto è la emersione del gioco illegale, cioè il controllo, la regolarizzazione del gioco illegale. Io nei numeri che lei ha dato ai nostri ascoltatori, è rilevante per un aspetto, che dei famosi 47 miliardi e grosso modo del 2008, quasi il 50% deriva da un settore specifico, quello degli apparecchi da divertimento, le cosiddette slot machine. Questo è un settore che fino al 2004 il nostro ordinamento non conosceva, era tutto gioco illegale. Allora è ovvio che se nel 2008 con le slot machine autorizzate dallo Stato, quindi controllate, c'è una raccolta di circa 22 miliardi di euro, non è che fino a due anni fa non giocasse nessuno, anzi al contrario, era tutto un settore ampiamente in nero, quindi l'attività di regolarizzazione serve a questo. E ovviamente per poter combattere in maniera adeguata il nero, chiamiamolo così, l'illegale, occorre offrire dei prodotti che siano appetibili, si dice in termini commerciali. Ovviamente il nostro obiettivo come Stato, come regolatore, non è quello di far cassa, ci mancherebbe, ma è quello di permettere che la risposta del cittadino consumatore sia coerente con questo disegno di controllo, di regolarizzazione. Quello che mi colpisce, direttore, è che negli anni, qualche anno fa, io avrei così dire scommesso tra me e me che, come ovvio, qui stiamo parlando di un settore in cui l'evoluzione tecnologica delle piattaforme, quindi internet, ma soprattutto anche i diversi software delle diverse scommesse online, sono fondamentali, perché hanno un effetto molto rilevante nel fidelizzare il pubblico, nell'invogliarlo e così via. Ed ero per questo convinto che i giochi di abilità, cioè quelli che in qualche maniera suppongono una conoscenza delle cose, fossero destinati a prendere più piede rispetto a quelli di pura fortuna, come quello sono quelli delle combinazioni numeriche del Superenalotto. Invece non è avvenuto così. Beh, guardi, lei invece ha indovinato, nel senso che in effetti il gioco cosiddetto di abilità, o quello che si può chiamare in gergo più professionale, è quello che come dire, tiene il campo in misura maggiore, perché lei mi dice che se le slot machine sono la metà, le slot machine guardi che le slot machine sono un tipico gioco cosiddetto di intrattenimento, in cui c'è anche una forte situazione legata all'abilità, ovviamente, nel senso che c'è una partecipazione del giocatore almeno ai meccanismi di gioco che l'apparecchio realizza. Il Superenalotto, che ovviamente è un gioco numerico in cui si indovinano dei numeri sostanzialmente, raccoglie rispetto al complessivo, noi arriveremo a fine anno con questi livelli di raccolta odierni intorno a 2 miliardi e 3, 2 miliardi e 2 come Superenalotto, e toccheremo i vertici che erano stati toccati già nel 99, quindi non stiamo parlando di una rincorsa all'infinito su questi giochi. Diciamo che c'è una, come dire, un posizionamento dei giocatori sui diversi prodotti e quindi c'è la possibilità di trovare il prodotto che viene ritenuto più congruo, più coerente con le proprie esigenze. Lei nel servizio che faceva prima, quindi riportava certi dati, è interessante un aspetto che questa corsa, ad esempio, di questi giorni al jackpot del Superenalotto, è quello che incide molto, sono i giocatori proprio strettamente occasionali, cioè quelli che non giocano quasi mai, che fanno una giocata. Che per così dire nel Superenalotto si vede che soprattutto per esempio nell'anno presente alle nostre spalle improvvisamente queste ventate che avvengono quando jackpot si impenna poi danno una base media di gioco che poi resta in qualche maniera, ecco, perché il Superenalotto va avanti di queste cose qua. Sì, però ecco, per esempio, una notazione statistica ma anche di costume, no? Quando c'è stato il precedente jackpot, come dire, l'ansia, chiamiamola così, del risultato si è manifestato su livelli intorno a 70 milioni di euro. Oggi questa specie di ansia, chiamiamola così, si è manifestata intorno a 90 milioni. Quindi, come vede, la famosa curva di indifferenza o di valore viene percepita gradualmente. Non è che c'è una suefazione a certi valori in maniera aritmetica, in maniera matematica. C'è proprio questo atteggiamento psicologico del giocatore. Io ci metterei quello anche più occasionale, quello che della giornata, che ovviamente ha una percezione del gioco in maniera molto, molto libera, molto limitata all'effetto dei media, all'effetto del contesto sociale in cui opera, quindi tutta una serie di elementi che fanno l'opzione per cui un certo soggetto decide di fare una valutazione di gioco. È anche con noi Giorgio De Rita, che è l'amministratore delegato di Nomisma, e Nomisma ha iniziato a curare da qualche tempo a questa parte un vero e proprio osservatorio sul gioco italiano. Moltissimi dei dati che vi ho citato all'inizio sono elaborati da Nomisma, li trovate in veri e propri quaderni, c'è cioè il quarto quaderno per l'economia nel marzo 2009 che è stato dedicato, lo trovate sul sito di Nomisma, al gioco in Italia, con osservazioni appunto di elaborazioni date molto più approfondite intorno a tutti gli aspetti di questo fenomeno. Buongiorno De Rita. Buongiorno a voi. Ecco, posso chiederle un'osservazione su chi gioca di più in Italia? Perché se noi vediamo dove si concentrano il maggior numero di giocatori in relazione al reddito disponibile o al PIL pro capite, abbiamo una geografia che tradizionalmente darebbe ragione a chi, come me, un po' storicamente, pensa che poi l'Italia è il paese delle tre F, no? Festa, forca e farina, come dicevano i Borboni, e quindi insomma a me il gioco non è mai piaciuto per questo. Io penso di poter partecipare a giochi in cui la teoria delle probabilità mi assegna un pochino di possibilità in più rispetto a quelli del Superenalotto. Non mi piace poi che lo Stato ci guadagni molto, però detto questo sono in minoranza. Ma è così o non è così? Cioè resta ancora l'aspetto del gioco tassa sulla miseria, o semplicemente si spende di più laddove c'è più reddito disponibile in Italia? Credo che in parte sia vero che si cerca ancora di recuperare attraverso il gioco una situazione di difficoltà economica. Tendenzialmente però, detto come lei diceva all'inizio, che in Italia giocano quasi tutte, quindi tutte le fasce sociali, tutte le fasce di età, sia maschio che femmina giocano in maniera simile, quindi c'è un'assimilazione al gioco. In questo momento stiamo registrando una forte crescita nelle dimensioni di gioco nelle regioni più ricche e da parte delle famiglie con maggior reddito disponibile. Il giocatore tipico, ad esempio, del poker online, che oggi raccoglie esattamente quanto il Superenalotto, stiamo parlando di circa 200 milioni, è un giocatore maschio di buon profilo culturale e di buon reddito. Il problema del gioco è un problema molto grande, lo diceva anche prima il dottor Tagliaferri, ha tante facce, c'è la parte di recupero dall'illegalità, il che spiega almeno in parte, secondo me solo in parte, la grandissima raccolta delle slot machine, perché 2 miliardi di euro al mese sono moltissimi soldi. C'è la faccia del gioco problematico, come diceva anche lei prima, ma c'è la parte di divertimento, di piacere, di scommessa sportiva, di partecipazione a un evento come un gran premio, una partita di calcio, una partita di basket. Ecco, io ricordo che la regione in cui la raccolta delle diverse forme di gioco in proporzione al PIL è più elevata per il PIL pro capite è la Campania, 4,4%, poi abbiamo l'Abruzzo, la Puglia, il Molise, Sicilia, Sardegna. Vista così sembra un po' la geografia della vecchia tassa sull'ignoranza, però invece poi non è così, perché scopriamo che ci sono alcune province, classicamente Pavia, che è in testa a tutto sia per raccolta, e poi, come diceva lei, le forme, diciamo, di sviluppo più moderno, i giochi sul software, quelli di poker online e così via, quelli tutti il nord che le fanno crescere e così via, quindi c'è anche una relazione diretta alla capacità di spesa. Iniziamo con i primi ascoltatori, abbiamo Francesco da Napoli, ci dica Francesco. Pronto? Pronto, dica. Buongiorno innanzitutto a tutti gli ascoltatori, devo esprimere il mio piccolo parere per quanto riguarda... Dica pure. Io sono onestamente contrario, perché credo che sia un sistema per drenare i soldi dai cittadini e per creare anche una sorta di subcultura. Il messaggio che passa a mio avviso è quello là, proprio di rendere possibile i sogni delle persone mediante il gioco d'azzardo per risolvere, insomma, le problematiche, le attese, ma credo che sia un problema anche un pochettino di più esteso rispetto a quello là dei giochi. Anche tutte le trasmissioni televisive il pomeriggio, sera, sono tutte quante incentrate su questi montepremi, giochi, senza poi nessuna abilità. È un messaggio culturale sbagliato che secondo me va eliminato. Grazie Francesco. Certo, a Napoli significa che lei è minoranza, perché sta riecheggiando le parole di chi dice in televisione un tempo almeno i concorsi come Rischiatutto presupponevano un certo livello culturale, adesso sono i pacchi puramente casuali. Io non so se ci possiamo permettere di guardare con questo supercilio così elitario il fenomeno, perché in effetti storicamente poteva essere vero, ma oggi diventa una specie di trasferimento che c'è in tantissimi fasci del consumo, dal consumo di vecchio tipo, di pura sopravvivenza, da quelli elementari, quelli alimentari, eccetera eccetera. C'è sempre più un consumo che va verso il leisure, come si dice in inglese, sempre meno sulle spese essenziali, sempre più su quelle inessenziali, ma che sono fondamentali nella qualità della vita, nel benessere e così via, e il gioco è una di queste componenti. Quindi chissà se noi vecchi minoritari non dobbiamo rivedere le nostre convinzioni. Cristina da Roma, prego. Sì, buongiorno dottore. Io la chiamo e sono perfettamente d'accordo con quello che stava dicendo poc'anzi, perché credo che comunque il favorire tutte queste lotterie, questi giochi, dia una sorta di vana speranza delle persone che sono anche disperate in parte, perché diciamocela tutta, in Italia c'è una crisi seria, una crisi importante, e come tutti i paesi dove le lotterie fioriscono e si alimenta la disperazione di tutti, diciamo che più sta e più cresce l'adesione a questi giochi. Io sono una giocatrice. E resta anche il fatto che, ripeto, il 68% di questo totale di 48 miliardi, però, è retrocesso poi ai giocatori con le vincite. Quindi sì, è una. Certo, in pochi si vincono, ma quei pochi vincono, ma vincono tanto, però, questo è il punto. Diceva, lei è una giocatrice. Vincono troppo, forse. Io sono una giocatrice saltuaria del Superenalotto o del Lotto quando capita, così. Però credo che intanto abbiano dato troppe. Ma lei lo fa perché lo ha imparato in famiglia? Posso chiederglielo? Dunque il lotto lo giocava mia nonna, da brava romana ogni tanto giocava. Il super enalotto è perché effettivamente poi è umano sognare, no? Cioè sognare il fatto di poter vincere tanti soldi, far star bene amici, parenti, conoscenti e quant'altro. Quindi quello sta nel sogno. Dopodiché farlo 3 volte a settimana, senza peraltro poi... diciamo che lo Stato non pubblicizza abbondantemente come vengono utilizzati i soldi derivanti dai introiti dei giochi. Quindi a me piacerebbe sapere anche questo da cittadino. Adesso lo chiediamo al dottor Tagliaferri. Sui 47 rotti miliardi del 2008 l'erario ne ha incassati solo 7,7, ripeto, perché il 68% è quello che si chiama il payout, vi è tornato in tasca a voi incalliti giocatori. Io del resto sa, ma la gente è convinta di credere nell'amore, perché non dovrebbe credere nel Superenalotto. Ma detto questo, Edoardo da Parma, e poi torniamo ai nostri ascoltatori. Prego Edoardo. Sì, volevo chiedere la vostra opinione su questo fatto. Dove ci sono molti soldi che girano, c'è anche molta corruzione. Facendo un parallelo con la sanità, che è un settore dell'amministrazione pubblica in cui girano molti soldi. Cioè lei paragona il Superenalotto agli ospedali addirittura, sì. No, direi semplicemente come settore in cui girano molti soldi. Nella sanità c'è molta corruzione, abbiamo avuto negli ultimi mesi, negli ultimi anni tantissimi casi di mala sanità, ma nel senso di corruzione di apparati pubblici per quanto riguarda diciamo e quindi la sanità non c'entra oggi, invece? No, la mia domanda è questa: questo settore gestito dallo Stato, in cui girano molti soldi, è adeguatamente controllato, nel senso che non abbiamo mai avuto dei casi così di grosse indagini che abbiano trovato del grazie Taglia, grazie Edoardo, la domanda è chiara. Allora Tagliaferri, siccome sì, so che poi ci deve abbandonare, ma questi due ascoltatori, la prima che dice ma tre estrazioni non sono troppe, io ricordo che siamo passati pochi anni fa, c'erano una media di 3-4 grandi concorsi a settimana, grandi possibilità di scommettere, erano quelli sportivi che giocavano. Oggi siamo insomma a più di 15-20 occasioni sommando tutte le cose, e dall'altra quest'ultimo ascoltatore che ci diceva ma siamo in regola con la trasparenza almeno della parte pubblica dei giochi, dica pure. Ma guardi, allora dal punto di vista, se ho capito bene il tipo di affermazione, i nostri giochi sono basati su un sistema organizzativo che è tutto legato all'informatica, cioè tutti i giochi che si realizzano in Italia vengono gestiti con procedure informatiche all'avanguardia. Noi abbiamo dei sistemi di gioco, abbiamo un totalizzatore per le scommesse, tanto per dare un esempio. Nel momento in cui in qualsiasi punto del territorio nazionale si gioca, in quel dato momento la giocata viene registrata in una banca dati che risiede dove è l'anagrafe tributaria, e come dire, c'è una certezza che le regole di gioco vengono salvaguardate al massimo grado. Questo è un dato oggettivo di bontà del nostro sistema. Sul gioco online, così prendo un po' quello che ho sentito, ci sono paesi come la Francia che vengono da noi, sono venuti da noi negli ultimi tempi per vedere il nostro sistema, quindi come dire, è un sistema di eccellenza. È chiaro che poi su quello che accade in concreto operativamente non è che si possa mettere la mano sul fuoco su tutto, però come sistema di gioco c'è la massima certezza. Io una cosa poi vorrei dire molto più semplicemente: quando parliamo poi di questi grossi numeri non ci dobbiamo far abbagliare dalla valore assoluta dei numeri, perché ad esempio nel 2003, che è un po' una linea di demarcazione, togliendo dall'idea complessiva quello che è la portata dello slot, degli apparecchi da divertimento, all'epoca si raccoglievano circa 15 miliardi di euro, oggi se ne raccolgono 25, quindi se noi utilizziamo la stessa platea di giocatori e di gioco, vediamo che in questi 5-6 anni abbiamo avuto un innalzamento della raccolta di gioco per circa 10 miliardi. Il grosso di questo è costituito dal gioco online, che prima non era esercitato, ma i giocatori giocavano collegandosi all'estero. Noi abbiamo recuperato in questo anno 2009 circa una raccolta di 2 miliardi di euro, semplicemente riuscendo a disciplinare meglio il gioco online, il famoso poker online, non è nient'altro che, come dire, l'esemplificazione visiva della regolarizzazione di una tipologia di gioco che prima veniva esercitata dalla gente. Quindi noi ci dobbiamo, come dire, rendere conto. Lo Stato dovrebbe anche disinteressarsi di queste situazioni, ma non è vero, perché in tutti i paesi della Comunità Europea tutti gli Stati regolano come stiamo regolando noi il settore. Non siamo delle mosche bianche, no, siamo anzi come gli altri paesi. Certamente. Eccoci tornati in studio a parlare insieme a voi di questa dannata molla che vi fa giocare. Dico dannata perché ho sempre pensato che il giocatore di Dostoevskij sia in larga misura, da quando ero piccolo ai miei occhi, l'incarnazione del giocatore. Però vedete, in questo mia madre aveva un modello culturale molto pervasivo, molto forte, che mi diceva: attenti, il gioco è pericoloso. Mia madre era fatta così, e quindi io lo associo al giocatore di Dostoevskij. Invece in tutte le società avanzate il gioco è una delle componenti degli stili di consumo, e quindi il moralismo della mia santa mamma, che saluto sempre, che benedico per gli schiaffi che mi ha dato, insomma, era un po' eccessivo, a dire la verità. Per questo io non gioco a nulla, ma sono minoranza, questo è il punto. Non faccio testo, chiamate, oltre che giocare, trovate un minuto di tempo per chiamarci all'800240024. Abbiamo Roberto da Torino, prego Roberto. Buongiorno e grazie per avermi chiamato. Senta, io ho fatto per molti anni il ricevitore, mi occupavo di Totocalcio, i giochi di una volta, e io purtroppo mi ha fatto dispiacere sentire il dottor Tagliaferri, intendente della finanza, esperto di giochi. Io purtroppo devo contraddirlo, perché gli interventi dello Stato sui giochi negli ultimi anni sono stati terrificanti. L'ultimo, in ordine di tempo, la Musette, che è un gioco veramente addirittura comico, addirittura definito comico dagli addetti ai lavori, è un gioco che riguarda l'ippica, per non parlare del nuovo Totogol, della distruzione del Totip, della distruzione del Totocalcio. Ma lei parla di distruzione, però mi scusi, è per far capire gli ascoltatori e per evitare altrimenti una polemica che non si capisce. Lei ha citato, aspetti, non prenda l'aceto, cerchiamo di capirci. Lei ha citato dei concorsi che sono quelli classicamente negli anni che hanno perso sempre più punti, cioè i concorsi a pronostici sportivi, appunto il Totocalcio, il Totogol, l'Ippica, quei concorsi ippici che avevano perso molto di meno. Poi si è fatto un intervento due anni fa, perché intanto tutto il settore che viveva anche dei proventi di quelle scommesse era in ginocchio di fronte allo Stato. Lo Stato ci ha provato, ma non si sono visti i risultati. Ma lei in realtà perché dice è stato lo Stato ad affossarle? Forse erano i giocatori? Innanzitutto, lo spiego perfettamente. Bisogna dividere i giochi in due tipi: i giochi dove uno, come giustamente dice lei, ci mette del suo, e i cosiddetti giochi degli arresi, come li chiamo io, il Superenalotto, il Lotto, il Gratta e Vinci. Quelli sono i giochi che hanno disintegrato il tessuto sociale degli altri giochi, perché sono giochi instant game, dove si gioca e si vince, dove però la tassazione è spaventosa. Cioè, noi siamo un paese che abbiamo una tassazione, penso, a livello dittatoriale. Io penso all'Inghilterra, io sono un grande appassionato di ippica, anche di calcio. Ippica non tanto come giocatore, proprio come ero un piccolo proprietario, lavoravo in scuderia. L'Ippica è stato un gioco che è stato disintegrato completamente, infatti c'è una crisi spaventosa. E poi per il tardivo intervento dello Stato nei giochi che erano in mano alla malavita, soprattutto le macchinette del videopoker. È stato tardivo, le macchinette del videopoker sono le macchinette che hanno disintegrato il tessuto sociale quasi economico dell'Italia, la gente lo sa. Questi e i signori mi mettono di dirlo, perché erano tutti in mano alla malavita, come tutti benissimo sanno. Le macchinette del videopoker sono stati per anni una manna per la malavita. Lei se lei come persona... No, ma mi è chiaro, ma noi abbiamo proprio detto, comunque adesso io la ringrazio della chiamata, abbiamo proprio detto che gli interventi successivi poi fatti su... estendendola e legalizzando le new slot, erano proprio fatte per impedire che i videopoker e le macchine in grandissimo numero di locali pubblici continuassero a essere la rete di raccolta della malavita, e quindi questo era un obiettivo esplicito dell'intervento fatto. Abbiamo poi Corrado da Piacenza, prego Corrado. Sì, buongiorno. Prego. Niente, la mia è una domanda molto terra terra, cioè i premi cui si potrebbero essere vinti, in che forma sono elargiti poi dallo Stato? Cioè, cos'è, denaro liquido? Io ho conoscenza della famosa leggenda metropolitana per cui se vincevi qualcosa anche al Totocalcio di importante ti davano magari un terreno su un colle impervio in cui tu non potevi né vendere. Un vecchio faro abbandonato di Ruto, lei dice. No, ecco, mi pare un po'. Però giusta domanda che molti si fanno a casa, e quindi adesso il dottor Tagliaferri risponde. Poi Paolo da Palermo ancora, e torniamo poi ai nostri ospiti. Prego Paolo. Buongiorno a tutti. Allora, la mia riflessione è questa: se lo Stato, insomma, ha tutta questa voglia di regolarizzare, insomma, le giocate. Abbiamo visto quanto sta raccogliendo in più con le slot e tutto quanto. Perché non facciamo in modo di aprire un bel po' di casinò? Almeno ne gode anche il popolo, almeno si incentiva anche il turismo, e così evitiamo a tanti siciliani, tanti italiani, di prendere gli aerei per andare nei casinò di Malta, nei casinò della Croazia, nei casinò francesi. E poi mi ha colpito un pochettino le cifre, insomma, che avete citato inizialmente di quanto è la raccolta, e non capisco come ci troviamo sempre in deficit con tutti questi soldi che lo Stato raccoglie soltanto con una voce, che dovrebbe essere quella di svago, insomma, un euro, due euro a persona, cinque euro a persona. Figuriamoci con le altre voci, tipo sigarette, alcol e quanto però vede Paolo, a me tocca dirle, nel ringraziarla, che lei dice come facciamo in deficit. No, io quello che non mi spiego è perché poi i politici vogliono sempre più soldi in più da spendere, e devo dire la verità, molto spesso gli elettori gli danno ragione, soprattutto al sud. Attenzione, che questo è un argomento a doppio taglio. Io adesso, in questo momento, prima di pregare Tagliaferri e poi De Rita di rispondere ai vostri quesiti, vi informo su quali sono i diversi prelievi erariali sulle diverse tipi di scommessa, perché appunto quello che molti non sanno è che lo Stato gradua molto il prelievo, e questo è anche una spiegazione del perché poi alla fine si venga indirettamente, pur senza saperlo, si venga incentivati più o meno a giocare un altro tipo, in un modo o nell'altro. Per esempio, su le nuove macchine slot, quelle appunto ufficiali del circuito pubblico eccetera eccetera, il prelievo fiscale è del 12%, invece sul gratta e vinci la lotteria istantanea è del 17,8%, sull'otto sale al 27%, sul super enalotto sale al 49,2%. Quindi non vi illudete, tutti quanti voi che pensate ai 107 milioni della vincita, state dando di secco, di sicuro, metà dei soldi direttamente allo Stato. Se invece si va al TOTIP, di cui lamentava prima il nostro ex ricevitore massacrato dallo Stato, però il TOTIP è la forma di scommessa su cui grava meno che su tutto il resto il prelievo, perché è meno del 5%, a differenza del bingo che è il 20%, le scommesse sportive di nuovo il 4,9%, il totocalcio il 34%, lotterie 21,7%, big match, io non so neanche cosa sia il big match, lo ammetto, il 19,7%, i giochi di abilità online il 2,9%. I giochi di abilità online sono ovviamente quelli che, essendo su internet ed essendo facile bypassarle con piattaforme dall'estero, più e più volte la polizia postale ha dovuto mettere a posto nuovi software per impedire che i giochi di abilità online dall'estero raccogliessero le scommesse e quindi eludessero anche la raccolta, hanno, come si vede, il prelievo fiscale più basso. Anche per questo il prelievo è mirato a seconda della maggiore o minore possibilità di eludere attraverso il gioco il controllo dello Stato. Bene, dopo che, come al solito, vi ho informato sull'aspetto che a me interessa sempre più di un'altra cosa, le tasse, togliamo a Tagliaferri. Torniamo a Tagliaferri. Dottor Tagliaferri, vede che, dando la parola agli ascoltatori, l'impressione è: ah, lo Stato, invece che lottare contro l'illegalità, ma a volte ci suscita perplessità. Cosa risponde all'ex ricevitore? Ma allora, intanto, lo Stato lotta contro l'illegalità, ci mancherebbe, lo deve fare perché lo deve fare. Ma al di là del fatto di doverlo fare, lo sta facendo perché l'amministrazione che io rappresento ha questa missione istituzionale, quindi noi siamo l'organo amministrativo che deve dare regole in questo settore, e quindi assicuriamo, dal nostro punto di vista, la massima, come dire, confidenza e convinzione nel assolvere a questo obbligo. Poi quello che diceva l'amico che ha chiamato, allora, è chiaro che ci sono tutta una serie di giochi che hanno subito una concorrenza molto forte nel tempo. Quella del V7, però, voglio dirla, perché a me, come dire, allora, le regole di certe tipologie di scommesse legate sui cavalli le dà l'ente preposto alle corse dei cavalli, l'Unire. Quindi la V7 è un tipo di scommessa ippica che ha soppiantato il vecchio TOTIP, che raccoglieva fino a 3 anni fa, poi è stato chiuso, proprio niente, quindi era ormai un gioco di cui era rimasto il nome, non c'era più traccia nella realtà operativa. È un tentativo di far riprendere certe tipologie di scommesse che ormai sono andate in desueto, cioè quello che il nostro amico, non dico che omette, ci mancherebbe, non pone in giusta evidenza, che lo Stato dà la possibilità, mette su, organizza una rete distributiva in cui oggi si può giocare chi vuole, gioca la V7, gioca la scommessa, gioca il gratta e vinci e così via, quindi è una potenzialità. Poi ovviamente non possiamo spingere per privilegiare un prodotto rispetto a un altro. Uno. Poi, se mi permette, un altro aspetto, quando lei citava giustamente quelli che sono i prelievi, allora i prelievi sono una leva che fanno sì che un prodotto, quindi una tipologia di gioco, sia più appetibile rispetto soprattutto a giochi, certo, dell'illegale. Io dico solo una cosa, perché sono dati scientifici e statistici. Quando nel settore delle videolotteri, quindi delle slot machine, fino al 2004 era tutto illegale, intanto stavano in tutti gli esercizi pubblici, tutti ci ricordiamo che, certo, si vedevano. E in quella realtà al giocatore veniva dato, in termini di vincita, non più del 40% della raccolta di quello che giocava. Il resto andava tutto in nero a chi organizzava. Oggi il sistema di colorizzazione è tale che il giocatore va almeno il 75% di quello che gioca. Dottor Tagliaferri, io la devo pregare di rispondere anche all'ascoltatore che le voleva sapere come si viene pagati, e in più di dare anche dei dettagli su se sia vero che oltre una certa cifra si è dilazionato nel tempo, perché io ricevo molte sms che mi accusano di essere in combutta con lei per far raccogliere più soldi allo Stato. Devo dire che l'ascoltatore che manda questo messaggio, e lo ringrazio per i suoi insulti, non ha capito molto del mio spirito verso lo Stato tassatore, però io insomma su questo sono qua anche per incassare. Però dottor Tagliaferri, è vero che si prendono i soldi a rate, che poi lo Stato sti 107 milioni non ce l'ha? Non mi pare. Ecco. No, diciamo cose non solo inesatte, ma sono proprio irreali. Allora, i giochi e le vincite sono assicurate in maniera, quasi bancaria. Chi è portatore di un biglietto, una ricevuta di gioco regolare, va dal concessionario e incassa. Se sono vincite basse, fino a un massimo tra i 3.000 e i 5.000 euro, si può essere pagati in contanti. Per vincite superiori c'è un accredito in conto corrente o bancario o postale, che noi dobbiamo rispettare anche le regole dell'antiriciclaggio. Eccomi, tracciabilità. Tracciabilità di chi prende. Non ci sono i sacchetti pieni di dobloni, per così dire. Senta, ma perché non sono le più in diretta all'estrazione? Perché qui un altro che dice che io sono in combutta con lei, si dimentica che non, gli italiani non vedono più in diretta e quindi è tutto fatto a tavolino. Noi abbiamo, purtroppo qui devo fare, come dire, una rivendicazione di ruolo. Purtroppo la RAI ci ha tagliato la trasmissione che faceva da anni sulla seconda rete, e quindi ahimè noi non abbiamo strumenti, non siamo proprietari di una rete televisiva, quindi siamo stati costretti ad accettare di malvoglia. Comunque lei non ha suoi amici che vincono regolarmente, insomma. Il gioco, ecco, il jackpot di 107 milioni, oltre a registrare gli afflussi record di giocatori anche non abituali, ma insomma comunque sempre più elevati della maggioranza degli italiani in queste ore per vedere di acchiapparsi questi 107 milioni, ci stiamo interrogando su che cosa ci dica di noi tutti, di voi tutti, di come lo Stato ci sorveglia e ci indirizza in questo, e di che cosa si faccia poi dalla parte di raccolta pubblica di questi 55 miliardi. Quest'anno saranno più di 55, secondo me, i dati di questi primi mesi con questa impennata della Superenalotto in corso. Ancora due telefonate e poi con Giorgio Delita di Nomisma, che abbiamo utilizzato un po' poco e me ne scuso. Roberto da Milano, prego Roberto. Sì, buongiorno. Dica. Appunto, relativamente al fatto che lo Stato ci controlla, stiamo parlando di cifre che sono prossime, se non superiori, a una manovra finanziaria. No, superiori, altro che. Superiori, esattamente superiori, che se Tremonti osasse solamente pensare a manovre di questo genere, non so cosa succederebbe. I servizi dei telegiornali ci parlano del fatto che le famiglie non arrivano alla fine del mese, però questi soldi saltano fuori. Io non gioco, ma non perché non arrivo alla fine del mese, ma perché secondo me sono tutte tasse in più che gli italiani volontariamente decidono di sottoscrivere, però non mi dicano che non arrivano alla fine del mese, perché io alle macchinette vedo esclusivamente operai, casalinghe, non vedo il manager che sicuramente alla fine del mese ci arriva, per cui noto di fondo una certa incoerenza. Poi è chiaro, sognare è consentito a tutti, però mi sembra una cosa abbastanza aberrante questa. Io ringrazio Roberto. Naturalmente la volontarietà del gioco esclude che si possa pensare poi di un'induzione, però detto questo ci sono fenomeni di dipendenza. Massimiliano da Genova, prego Massimiliano. Buongiorno, proprio sulla volontarietà, la ricerca dei giocatori secondo me è tutta dettata da per moltissimi è dettata dalla ricerca dell'emozione. Oggi tutto è fatto di emozione, la ricerca dell'emozione. Quando si gioca c'è anche una sorta di quantità di adrenalina che entra in circolo, tutti sono alla ricerca di questo. E io sono un giocatore, ma non di quelli esagerati, abbiamo dei budget con gli amici che stanziamo soprattutto per scommesse online legate al calcio. Prima questo si faceva col Toto Nero, va già bene che non c'è più. E ci sono però due classi. Non c'è più? No, cioè c'è ancora, ma in maniera minore, ecco, non c'è più, diciamo che in maniera molto minore, perché grazie alla legalizzazione si può andare tranquillamente online e via. Non lo so, io quando vivevo a Roma, nelle redazioni di tutti i giornali, radio e televisione in cui ho giocato, il cosiddetto picchetto era qualcosa che raccoglieva cifre inverosimili, perché il meccanismo era di pagamento immediato ed era liquidità tutta nelle mani della malavita, tutti lo sapevano e tutti giocavano. Tutti giocavano, però allora diciamo che una buona parte è passata comunque alla legalità. Meno male. Ci sono secondo me due categorie però, come diceva l'intervento di prima, le casalinghe e gli operai, che sono legati alla fortuna, ai pacchi, alle slot machine, e poi invece ci sono quelli che sono verso lo studio, sono quelli che si occupano, tra virgolette, di cui io faccio parte, di cui ci illudiamo di prevedere il futuro e poi vantarcene anche un po' con gli amici. E questa è la distinzione, Massimiliano, nei giochi quelli di pura fortuna, combinazione numerica eccetera, i cosiddetti skill game, in cui insomma uno conosce di calcio, si illude. C'è una differenza, perché quelli lì degli skill game, quelli che invece credono di poter studiare, perdiamo sempre puntualmente tutto la domenica. Non c'è dubbio. Perché chissà perché manca sempre la famosa partita, e non sono d'accordo con quelli che vanno agli skill game, perché di là c'è una sorta di ragionamento sopra, che puntualmente viene naturalmente, poi va in perdita, però ci sono due classi completamente diverse e allo Stato non imputerei nulla. Questo anch'io, devo dire la verità, la ringrazio, non c'è dubbio, nessuno vi obbliga a giocare, quindi non prendetevela contro lo Stato, prendetevela contro voi stessi, se non siete d'accordo a giocare, altrimenti giocate felici. Allora, Giorgio De Rita, vediamo un po' l'aspetto anche però appunto sociale, i problemi di dipendenza. A me fece molto ridere scoprire 2 anni fa, mi ricordo che era nella finanziaria di due anni fa, che in merito appunto alle cifre importanti, abbiamo visto più o meno il 30% del totale delle scommesse italiane alla raccolta dell'erario, a un certo punto si pensò di istituire una specie di fondo per finalità di sociali, di informazione preventiva e poi anche per finanziare il recupero dei giocatori che hanno problemi di vera e propria dipendenza, e si stanziò un fondo rispetto ai 7,7 miliardi di euro raccolti dall'erario nel 2008, che poi mi sono informato è meno di 100.000 euro, meno di 100.000 euro, sto dicendo, che per tutte le scuole italiane servirebbero a rendere informati i giovani studenti dei vizi, dei difetti, voglio dire, di diventare giocatori incalliti. Ma in realtà, ecco, cifra che la dice lunga, sarebbero meno di 10 euro a scuola, ma in realtà si fa abbastanza sul fenomeno della dipendenza, la cosiddetta ludopatia, cioè chi ha problemi di dipendenza e si rovina? Secondo lei si fa abbastanza per questo? Ma direi che non si fa quasi nulla, assolutamente non si fa abbastanza, il problema sta diventando sempre più rilevante. Lei diceva prima dei giovani, tenga conto che il 75% dei ragazzi che studiano l'ultimo anno di liceo hanno avuto occasione di gioco, e il 6% di questi dichiara di se stesso di avere problemi seri con il gioco, quindi stiamo parlando di circa 120.000 studenti. Ammettendo che la percentuale nazionale su tutti i giocatori sia vicino al 5-6%, stiamo parlando di 1.200.000 persone che hanno problemi seri, importanti, di dipendenza dal gioco, e non si fa nulla per fare attività di prevenzione, ma soprattutto, come diceva la sua mamma, non si fa abbastanza nell'informare, nell'intimorire forse, ma comunque nel dare un'informazione. Più del 78% degli italiani dichiara di non sapere quasi nulla, né sui rischi né sui problemi che dal gioco possono derivare. Il problema vero è quello, cioè di riuscire a creare un minimo di tessuto di informazione, di conoscenza e anche di protezione sociale, che altrimenti rischia di lasciare completamente abbandonato chi si trova a dover fronteggiare un problema serio con il gioco, e ripeto, sono oltre 1 milione di persone. Da questo punto di vista, ad esempio, anche le aziende, gli operatori spendono oramai in pubblicità cifre importanti, e su questo forse un po' più di trasparenza non sarebbe male, sia i monopoli sia gli operatori dicono pochissimo, L'anno scorso hanno speso circa 30 milioni di pubblicità, stimiamo che quest'anno ne spendano oltre 300. Quindi in pubblicità, in raccolta di nuovi clienti si spende moltissimo, in tutela soprattutto dei più giovani direi che non si spende quasi nulla, se non nulla. Certo, e questo è il vero problema. Certo, voi di Nomis, ma lo sapete benissimo, quando una cosa diventa 3 punti percentuali del PIL, cioè molto più di quello che la Fiat si avvia a fatturare quest'anno, sì, è una vera e propria industria, e quindi c'è da lavorare molto sugli spazi ancora grigi di questa industria. Lei diceva la trasparenza informativa, qua stiamo parlando di un mercato così importante che molti grandi big oramai diventano importanti sul mercato italiano, cioè possiamo essere di esempio di trasparenza agli altri, e lo siamo in questo momento in maniera comparata secondo lei oppure no? Secondo me lo siamo in termini di capacità di gestione del gioco per tutelare il giocatore, non lo siamo in maniera assoluta in termini di capacità di tutelare la società. Ad esempio, il dibattito che negli altri paesi c'è su è lecito o no che le società del gioco sponsorizzino squadre sportive, è opportuno o meno che si faccia una pubblicità così aggressiva sui media, un po' quello che era stato fatto per il tabacco, no? Tutto il dibattito che ha preceduto la messa al bando della pubblicità del tabacco negli altri paesi si fa, da noi non si fa. Il dibattito è un dibattito ancora molto molto povero circa i pericoli, le difficoltà e il modo di affrontarli, quasi che l'intenzione di recuperare l'illegalità del gioco superi tutte le altre motivazioni invece di tutela sociale che ci sono e devono essere mantenute. Grazie Rita, avrà capito dalla musica che abbiamo messo in sottofondo che noi ci abbiamo in chiusura. Io approfitterò di nuovo di lei, e oltre al fatto che mia madre praticamente mi ha mandato da lontano una specie di fulmine perché ho detto che faceva il batterista di Carosone, ma come ho potuto dirlo, era il mitico Gegé Di Giacomo il batterista, cioè il chitarrista Van Wood, e mamma mia, mi sono ripreso con mia madre, spero che mamma mi perdoni perché ho parlato di gioco, di questa cosa terribile. Mamma, ma quelli sono maggioranza quelli che vanno a giocare, vatti a vedere le fila di quelli che giocano, eh? Giocate un po' più con intelligenza, datemi retta. E io ringrazio in regia Giorgio Matè, Gloria Guerrera e Laura Faggin e tutti coloro che ci hanno fatto giocare con voi oggi. A domani, Rina Giornale Radio.